guardare lui come stava guidando, sono gli errori che fanno gli operai o Tony. La maggior parte degli incidenti, la maggior parte sono da attribuire secondo me agli errori che fanno gli operai, nonostante tutte le regole e le precauzioni che possono esserci in un'azienda. No, sono il contrario di quello che stai dicendo, Giulio. Allora io più recente ho fatto in sindacalista e quando una bella giornata che ha piovuto tanto la sera, inizio domani fuori senso, mi serviva metto il giorno tra che dicevano sì i muratori. Ho detto mi fa vedere dove devo lavorare i muratori, io sindacalista. Sono andato e ho detto qua. No, ho detto ci sono anche dei capi edifici, perdere mezzo all'acqua, ma stanno scherzando, gli ho preso e ho fatto a casa in considerazione, se ne va a casa. Mi dispiace, non è giornata a lavorare, forse ci sarà tutto pulito, non se ne parlerà, capito? E ripeto, queste cose uno deve guardare, è inutile gli operai, non diamo la colpa agli operai, perché l'opera punti travagliarsi, se lo manda a casa, lavora dove dice, poi lavora qua, quello lavorerà, dai, ne dico un'altra, tempo ancora fa, io stavo lavorando alla CIR, ti spiego una cosa, toglievo la cera sintetica, se no che mi avevo una pellicina nelle vicine a Luca, me l'ho tirata con i denti e me l'ho trappata, adesso un po' di sangue, questa è la luce. Ho continuato a togliere la cera quella sì, eccetera, mi ha preso infezione, domani va via un dito, campione al mondo, dito nero e gonfio, sono andato al campo sport, ho detto guarda come c'è un dito, ho preso infezione così, vieni qua, invece di portarmi in infermeria mi ha portato un caporno leonato a scopo, qua c'è la scopa, poi c'è il campanone, ho detto ma tu sei tutto di cui unito, a scopa e mi ha calcio in culo, ho preso e me ne sono andato all'ospedale e mi hanno fatto un'iniezione elettrale, che cosa, in corso mi ha reso che mi ha fatto, non lo so, insomma, l'ha ripagato, mi sono messo in malattia e mi ha ripagato, ma confonetesi, c'è gente incapace, incompetente, queste cose le devono vedere prima che succeda il morto, ma stiamo scherzando, Giulio, la colpa è sempre dell'azienda, del padrone, il padrone prima di aprire una ditta deve mettere anche un operaio responsabile che se intende, che ha fatto scuola, che sa molte cose e deve fare stare attento, fare questo, cioè vai in galera il padrone, sto scherzando, non è la colpa superoperaio, diamo la colpa agli operai, ma ti pare che l'operaio ti piace che muori, ma poi fuori dice che uno che c'ha famiglia c'ha figli, ma io che non è così, dai, io penso così, avanti già. In effetti è così, però c'è anche qualcuno che capisce a guidare e pur sapendo le cose come devono essere e continua a non eseguire quello che deve fare. Qualche cosa ha già esistito, che qualche operaio magari non ha usato le precauzioni ed è per quello, ma in effetti se c'è un responsabile che quando vede un operaio che non fa quello che deve fare dice no, tu non scendi se non c'è la mascherina, tu non fai quel lavoro se non c'hai le protezioni, è come saldatore, devi usare le ghette, devi usare il grembiule, devi usare tutte queste cose, perché io sono stato saldatore alla Montubi e tutte queste cose le dovevamo usare perché ci sono le radiazioni. Pensa che una mattina prima di lavorare c'era lì anche il responsabile, come ha visto l'operaio, no, caro mio, ho piccato le scarpe che non c'è quella telefonica che ti abbiamo dato, se no te le stai trovando a casa, capito? Pensa, anche le scarpe telefonica, perché se mi cago un tubo sul piede c'è la punta in acciaio, quindi Pietro non ti fa niente, capito? Quindi se ce l'avevo dato motivo ci sarà, per qualsiasi cosa che ti cade sul piede ti salva il piede, purtroppo la gente è anche ignorante che non lo fa o la fretta eccetera e infatti le scarpe antinfortunistiche per dirti cazzo pure a me le facevano mettere anche se ero autista, hai tutto, se no non ti va a travagliare, facciamo la casa con chi tu della sicurezza erano i cavoli acidi, non te la scampavi. E quando dovevo fare qualche cosa non c'era roba elettrica, mi sentava mai aiutare quale serramentista, cosa c'era a fare? Cadere i vetri, occhiali i guanti in pelle, per sicurezza, capito? E quindi me ne dava il magazzino i guanti in pelle, che ci vedono i guanti in pelle, se non ce ne sai perché hai fatto il corso, lo devi sapere, non puoi andare con la mano nuda a pigliarti l'ovrete in mano, ma confondete sì, no. Purtroppo Giulio è così, la colpa non lo do tutto l'operaio, fregate, che l'operaio te lo... cioè sarà un corso mille che ce l'ha tutti, ma non è così comunque. Avanti Giulio. Ok Tony, no, io dico questo, se la ditta ha un responsabile, il responsabile deve essere quello che deve controllare, voi avete idea di quanti capi cantieri sono saliti sul ponte? sono caduti loro, i responsabili, quelli che dovevano appunto vedere le condizioni di tenuta dei lavoratori, e magari sono caduti loro direttamente dalla cosa. A questo punto la colpa di chi è? Dell'impresa? Ma dai, dai, che l'operaio ne sa più dell'impresa 10.000 volte, non una volta, ma 10.000 volte, più del tecnico e più di tutti ne sa dove c'è il pericolo. Solo che sono malati, me ne freghissi, quello che dico io. Ma l'azienda a questo punto, secondo me, non deve avere tutte le colpe, casomai le colpe ce l'hai il responsabile che l'azienda ha messo per controllare gli operai. Invece no, la colpa è sempre direttamente all'azienda. Ma perché? È perché siamo sicuri che l'azienda ha messo un responsabile. Se non c'è il responsabile, la colpa è l'azienda, non basta. Ce n'è ragione, se non c'è un responsabile ha ragione, ma in linea di massima in tutti i cantieri, in tutti i posti di lavoro c'è sempre un responsabile. Tu vai in qualsiasi cantiere, c'è un capo cantiere, tu vai in qualsiasi posto, in qualsiasi industria eccetera, c'è sempre un capo, sempre. E però chi ci fa male chi sono? Gli operai, non mai i capi. Molto spesso è successo anche che si sono fatti male i capi, ripeto, più di una volta proprio il capo cantiere è salito sul ponteggio ed è caduto lui, la colpa di Galè. Mettiamo un altro capo cantiere per controllare il capo cantiere, così facciamo. No Giulio, può essere che è ubriaco, se è successo, ha messo male in piede, forse è stato dei fattori. E poi lo prendiamo quelli persone poveracce che sono morte durante la linea del treno, che è passato il treno, che non dovevano lavorare sui binari, perché l'ha anche detto la tecnologia. Chi è che l'ha mandato lì? Quello doveva andare in galera, capito? Sì, infatti. A un collega, per esempio, siccome noi davamo una mano a scaricare, però non lo potevamo fare, l'ha trovato sopra il cassone del camion, quello della sicurezza, e ha detto scendi immediatamente da lì, perché tu non devi scaricare niente che sei autista. Se ti fai male, chi lo porta indietro il camion? Si è agganciata la schiacciata. schiacciata, uno è quello, madre di una figlia sono padre ratto, in quel paesino dove c'era il coso che lavorava in pane, eccetera, insomma quelli perché hanno tolto il coso di sicurezza. Ti dicono, ti cito un altro successo, la funivia che hanno tolto la forchetta, si chiama così, per avere più velocità di avere il viaggio, la paperata e incassare più soldi, sempre il padrone che l'ha fatto togliere, sempre il padrone deve pagare, perché è così, l'abitudine di un padrone, se che tu vuoi non gliela fa tenuta appunto, non gliela fa tenuta, tu la regali al padrone e ti fai il cazzo, vai e ammazzati. Vabbè, poi il silenzio se puoi dietro l'angolo, oh, può stare tutto quanto vuoi, ma basta un attimo Giulio, che succede, non è che abbiamo lavorato su tutto, lo sappiamo che è così. Ci sono sbagliate, poi sono tutti. Non ci sono dubbi. E secondo me io sempre penso questo, sono io che sto rischiando il pericolo e allora cerco di stare attento io. Chiaramente un incidente può succedere, per carità, anche con la massima attenzione, ma non per questo devo avere per forza vicino, dietro le mie spalle o a fianco a me il principale che mi controlla. No, io non sono d'accordo, la verità Tony, io poi ognuno ha le sue idee, chiaramente, però è così. Io ne ho visto tanti incidenti in falegnameria, ma tanti veramente, in tutti gli anni che ho lavorato in stabilimenti eccetera, e devo dire addirittura uno addirittura si è tagliato proprio un braccio intero, tanto per dirti cose grazie che ti lasciano proprio così, ti fanno venire tanta di quella paura che anche tu poi che vai avvicinarti alle macchine senti sempre il pericolo che ha passato magari un tuo collega. È la colpa di chi? Non è che c'è la principale da fianco a lui dicendogli guarda che quello lì è pericoloso perché le taglia il braccio, no? Tony, dai, la vita, sì, ripeto, deve mettere tutto a disposizione quello che serve per evitare qualsiasi incidente, ma se poi l'operaio o il dipendente non rispetta le regole, sono problemi suoi. Giulio, a Piazza eravamo 2.400 operai, 86 imprese, c'era un geometra che non faceva nulla dalla mattina alla sera, era pagato per girare tutto il cantiere, era il geometra della sicurezza, qualche duro per la circolare, quella famosa c'ha il tavolino, aveva tolto il coso della sicurezza per stare nella legna, è avvicinato il geometra al punto e ha detto, fai una cosa, guarda, se ho bisogno dell'azienda ti faccio anche licenziare, anche per il coso di Ciroli, ti apri due con la sigla circolare, ci vuole la protezione sopra, vedi, non nella punti nuda, comunque il geometra nudo c'era per il geometra della sicurezza per controllare queste cose qua, e il controllo faceva bene, la luce non può fare invece il corso per la provincia, grazie a Dio abbiamo fatto tutto, e abbiamo cose che a noi ci servono anche tutt'oggi come primo soccorso, perché serve, trovi qualcuno che sviene, tu ti puoi salvare la vita, perché sai benissimo che se rimane roba di 6 minuti, che quello non riviene, ma se dovesse rivenire per caso rimane diciamo messo male, perché non arriva il sangue e lo sigla il cervello, quindi tutte cose che dobbiamo sapere. La colpa non diamo sempre diciamo all'operaio Giulio, ma anche il padrone, se... allora scusatemi, no, tu ti compri la macchina, non ti mettere il bullone nella macchina, tu bullone solo e tu ci cammini, te ne freghi intanto, oh? Non è così, no Giulio, no, e il padrone deve avere la macchina, dice, oh, funziona così, la macchina è regola, tutto per tutto, fate controllare, eccetera, eccetera, la colpa ce l'ha il padrone, io non posso prendere, assumere, operai, no, no, Giulio, il cantiere deve essere perfetto, idoneo per la sicurezza, per la persona. Allora, funziona così, la ditta deve responsabilizzare l'operaio con il corso e con tutto quanto, se poi l'operaio non mette in atto quello che la ditta gli dice, deve praticamente intervenire il responsabile, che deve far lottare l'operaio che non sta facendo le cose bene, questo è il movimento. Ma noi le facciamo una bella multa, la seconda più alta ancora, la terza licenziato, e funziona così, fregatene. E gli fanno anche il richiamo, tu ne fanno tante di cose, cioè devi stare molto attento quando fai lavori, perché ha ragione anche Giulio, devi metterci attenzione anche tu, non è che tu per fare cose da fin fluida, la metti in mani e succede un casino, anche l'operaio deve stare attento, è responsabilizzato dai corsi che si fanno, poi quando lui non fa le cose come deve, interviene sempre chi di dovere, cioè chi ha le mansioni per farlo. Sempre davanti che circolava attorno ai banchi degli operai, decine di hanno tagliato le mani, ti dico le mani nel senso un dito, una cosa, eccetera, no, si sono fatti male, ma non è possibile se ci sono, per dire, 70 operai lavorando, vuole ce ne vuole essere 70 uomini che facciano attenzione a questi 70 che stanno usando la macchina, no, assolutamente no. Ripeto, la ditta si mette a disposizione tutte le protezioni inimmaginabili. Poi secondo me è l'operaio che deve avere la massima prudenza, cosa che molto spesso non ce l'ha, tutta questa prudenza, o per farsi vedere bene dagli occhi di chissà chi, o perché fa il lecchino, insomma il motivo c'è. Il fatto sta, quando si fa male è sempre colpa sua. Io la penso così, perché è la ditta che ha fornito tutto quello che serve e che impone la legge, ma se tu ti fai male poi la colpa di chi può essere solo tua. Io la penso così. Giulio, quella polemia che è caduta, che si è salvato solo il bambino perché il padre ce l'ha messo a prefetto, cosa si risente? Quella che è stato il padrone a togliere quella famosa forchetta, che è cosa della sicurezza, capito? Per avere più viaggi, per incassare più soldi, sempre il padrone. Ma quello va bene, lo sappiamo, ha sbagliato il padrone, non è detto che il padrone non sbaglia. Io non ti sto dicendo che il padrone non sbaglia. Il padrone sbaglia, e non ti sto dicendo che tutte le aziende siano in regola con tutte le precauzioni che servono e che dice la legge. No, assolutamente no. Però la maggior parte delle persone si fanno male per la propria imprudenza personale. Io la penso così, dai, no, è inutile che tu fai il meccanico, ad esempio, ti metti sotto la macchina, capita, e non metti il cavalletto in protezione, magari ha messo solo le fricche. Non va bene così, devi utilizzare quello che serve per la massima protezione, se no che colpa ne ha il padrone dell'officina se tutti si è andato sotto la macchina senza mettere il cavalletto e ha messo solo il click per cambiare la ruota? Non va bene, dai. E a me dipende sempre dai tipi di lavoro, quelli che i mulettisti che sollevano la merce, come la sollevavo anch'io, anche se non ero mulettista, io facevo di tutto, facevo l'autista, facevo mulettista, facevo tutto. Quelli che sollevano la merce in alto, una volta si è spaccata una pedana, in due si è spaccata ed è caduta tutta la roba. Per fortuna c'era la rete sopra il muletto, perché se no mi sarei fatto male veramente, perché c'era roba pesante. Ma indubbiamente, appunto, gli incidenti succedono. Però perché succedono? Perché hanno lavorato male. Chi è che sta lavorando? Stanno lavorando gli operai. Io la penso così. Poi, indipendentemente dal fatto che anche le colpe ce le hanno anche i padroni delle aziende e delle imprese, eccetera, eccetera, questo è d'accordo. Però se un'azienda è seria, ti dà tutto quello che serve e tu non usi le protezioni che servono, la colpa è tua, non è dell'azienda. E un'altra cosa, Giulio, è il padrone, si chiama il padrone che non siamo con gli schiavi, il titolare, il padrone dell'azienda eccetera eccetera, non gli costa nulla, qualche giorno esci, faccio un giro con gli operai, a conoscere come stanno lavorando. Noi Vanzimari non è solo incassatina e po', il nostro direttore mi diceva 12.000 euro al mese, capito? Però veniva a trovarci, e beh, come state ragazzi? Ma che ho preso? E veniva in condizioni, e se c'era qualcosa che non andava, ci si diceva al direttore, faccio provvedere immediatamente, telefonava e subito il magazzino andava, comprava e portava. Questa è la serietà, io sono stato lì esattamente 24 anni, ti posso dire che ho lavorato da Dio, non mancava niente. Ma sì, sono d'accordo, ma c'era il direttore che era incaricato, e io sto parlando, l'azienda non è il direttore, il direttore è un dipendente, anche lui può sbagliare, è lui che deve fare attenzione agli operai, ma in questo caso qua l'azienda secondo me è tutelata, perché dice io ho messo una persona che deve fare il suo lavoro, controllare perché gli operai non corrano rischi pericolosi. E a questo punto io ribatto sempre su questo punto, l'azienda può avere le sue colpe, non so in che misura, però la maggior parte delle colpe ce l'hanno sempre i lavoratori. Ricordati che i lavoratori sono anche gli ingegneri e i tecnici che vanno nei cantieri, eccetera, eccetera. Perché? Perché quelli sono sempre dipendenti dell'azienda. Solo voi, gli altri non parlano. Sta lì. Già sono qui. Caspettina. Con sé, come avevo detto che mi diglielo, come ti volevo eliminare? Come ti volevo ammazzare? Ma cosa ho detto? Prima l'hanno detto. Sentito? Sì. È macabro, Natalino. Mattarello, prendi a rallentare la schiena a Natalino. Come c'è, non ti fido. Mi ero mai fai ridere. Bravo Giulio, difendimi tu. Prendi il Mattarello, se non ce l'hai te ne faccio uno io, te ne faccio, bello, divengo duro, in modo che non si spezzi. Stata lì, cavali della serra, Giulio. Non mangiare più della roba che fa l'Altarino, non si sa mai. Già cucino io per quello adesso, e poi avveleno io a lui. Ma io ce la posso assaggiare prima, io. Conce, metti di gutta la tu. Cosa vuoi fare, Conce? Come fa Putin? Prima di mangiare, di bere qualcosa, c'è l'assaggiatore. Così vuoi fare, anche tu vuoi fare così. Giulio, voglio fare così. Gioia. Vabbè, dai. Vabbè, comunque già ci siamo capiti, Tony. No, non c'è che dire. Sappiamo benissimo che i vici sul lavoro ci sono, però in prima persona io, lavoratore, io, per me, per la mia salute, sarei il primo a stare attento. Poi, se ci sono delle cose controverse, eccetera, io secondo me sono sempre le mie, per conto mio, poi per gli altri non lo so. Guarda, anche allora ripeto, insomma io ho studiato, ho fatto i corsi, eccetera, eccetera. Innanzitutto, quando sei sulla scala aerea, cinture di sicurezza, perché ci vuole, non c'è, non ci salgo, perché giustamente questo guardando io, perché ho fatto i corsi, so come bisogna comportarsi. Se non ho fatto i corsi, beh, l'azienda deve pagare per fare questi corsi, scusa, non è che viene un piccolo pallino a spiegarti cos'è la cosa e come si fa, e quindi, e giustamente c'è un'azienda che non vuole spendere soldi di cosa la fa. Poi hanno anche il medico, noi abbiamo il medico che ci fa una visita, controlla il sangue, come respiri, il fiato, quello per altro, tutte cose che devono fare, e l'azienda paga, deve pagare, è così, tutte le cose. Uno deve stare attento anche a se stesso, giustamente io sto ruotando su questo, diciamo, macchinario, so che la sicurezza è questa, non c'è questa sicurezza e noi non ci lavoro, ma reclamo al responsabile, poi deve prevedere di far aggiustare qualcosa che mancava. Bene, Vera, oh signori, dai, io sono alle 7:20, mi devo preparare qualcosa e mi sforzo. Vi ascolto, ben volentieri. Buon proseguo, ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Natalino e eventuali ascoltoni. Guarix da parte mia, statemi bene e buon proseguo, ciao ciao. Ciao ciao Tony, ci sentiamo, buona serata, dai. E buona carica quando la fai. Avanti, Natalino. Ah, ciao Tony, da buon proseguo, buon tutto, grazie per le quattro chiacchiere. Avanti Giulio. Ok, ciao ciao Tony, grazie per la chiacchierata, fate sentire le prossime. Comunque l'ultima battuta te la voglio fare. Se tu, se a me il principale mi manda in un cantiere a piazzare le porte e vado da un piano all'altro e io cado dalle scale, la guipa di galera, lo principale, ma dai, ui, vabbè, comunque non succede niente. Ciao Tony, grazie ancora per la chiacchierata, buonanotte quando vai a riposare. Giulio, dico l'ultima cosa, ci sa che operai, c'è tra che prima di lavorare si beve un bicchiere di vino e poi se calci mi dica ubriaco. Quello può anche bere, può essere anche vero, perché no, certo, appunto, e la cui poi non è il principale se gli danno ad ubriaco in cantieri. Dai Gianni. Andare. C'era anche Marco, ci sei ancora. Stavo ascoltando a tratti. Ciao Torino, se ci sei ancora. Insomma, morale della favola qual è? Che bastava uno straccio di mascherina, quella ai carboni attivi, da 50 euro e sarebbero stati salvi. Però non carboni attivi quelle tipo Covid, no. Quello col filtrino a baionetta, quelli lì. E lì se l'azienda non glieli dà, sta anche l'operaio proteggersi, cioè se li mandano lì in certe cose tutte fettenti, piene di gas, di roba irrespirabile, alla fine se non glieli dà l'azienda, tanto è una cosa abbastanza economica, mi quella. Ciao Marco Rix, ti ho sentito, sono fratto indietro e ti sono saltato. Ciao, buon proseguo. Ciao di nuovo Tony, ciao, alle prossime. Sì Marco, beh, è ovvio, è quello che dico io, ma la persona deve essere lui stesso personalmente a cercare di proteggersi, perché non è possibile, se io ti do tutto quello che serve per la protezione, tu non la usi, allora o si è guasto o si è imbriaco, non è possibile, il discorso è sempre quello, e io ripeto, a me mi mandava, se uscivo da lavoro, nelle ore di lavoro mi mandava a fare scuola di disegno, andavo, e a questo punto se io salivo le scale, oppure se andavo le scale mi truccavo l'ungoggio, la colpa di chi era? Della vita fratelli caso che mi aveva mandato a scuola? No Marco, secondo me no, ci sono motivi e motivi prima di incolpare un'azienda. Comunque anche gli operai, se non c'è il capocantiere o chi è il responsabile, fanno i cavoli loro, perché qua ne ho visto sempre tagliando la mola quando c'erano qua per il 110, senza occhiali, senza guanti, senza un accidente di nulla, che se si spacca il disco lo fa cieco, gli apre la faccia in due, per dire. A me è successo. Ma per fortuna non ti è andato a, cioè non è successo niente. Guarda, è pericolosissimo se salta, se si spacca il disco della mola con quella velocità che ha di rotazione, capito? E a me è successo, probabilmente toccava il coso per riparare da incidenti eccetera, c'è quella specie di coprimola che c'è, il copridisco, quello lì sicuramente il disco si è stortato, che ne so, ha toccato, ha fatto una scintilla, si è spaccato, però io avevo gli occhiali. Sì, beh certo, ripeto, può succedere in qualsiasi momento, anche per una macchina difettosa, ok, oppure per un disco difettoso, può succedere anche quello, certo che può succedere. Però se la ditta ti ha dato una molestia, quella molestia è sicuramente fatta in regola di come deve essere protetta. Se tu poi ti togli la mascherina e ti si spacca il disco, ti ricolpisce, la colpa di chi è? Non lo so Guio, non è che il principale è lì davanti a te guardando se tu ne hai tolto la mascherina dalla molestia, no Gianni? Io di questa attrezzo ne ho usato anche a scuola, perché io ho fatto la scuola come saldatore dentro al Secitilinico e usavamo gli dischi per tagliare i pesi, per saldarli, per fare. Eppure mi è successo, ma io a scuola stesso ho imparato a usare gli occhiali sia per saldare, che usavo quelli azzurri, sia anche per tagliare con la mola, che usavo quelli trasparenti. Quelli azzurri si usano per saldare con l'ossigeno, con la fiamma ossidrica eccetera eccetera, invece quelli bianchi li usavo per la cosa, per tagliare, per fare, anche quando usavo la mola quella ferma, usavo la sega circolare, tutte queste cose qua si usavano sempre gli occhiali. Il professore senza occhiali non ti voleva vedere. Beh certo che no, ripeto, queste cose ripeto ci vogliono, perché ci vogliono. Ma io ho lavorato a contatto con emulatori soprattutto, e anche con fabbriche eccetera, per oltre 50 anni, a contatto con loro più di 50 anni, soprattutto quando ho lavorato con il fluvio. A questo punto che cosa succedeva? Succedeva che, ma come mai tu sei senza la cintura di sicurezza? Come mai tu hai le scarpe normali e non hai le scarpe antinfortunistiche? Come mai tu non hai il coso per i rumori? Come mai non hai gli occhiali? Tutte queste belle cose qua. Oh, figura di Gio, sono andato a Bonte con tutti i cantini di sicurezza, come ti può voglia con tutta quanta chissà cosa addosso. Mi rispondevano così Gianni, capito? Ecco, però puntualmente magari poteva succedere un incidente, era colpa allora rimpiangevo per non aver utilizzato le protezioni. Ecco, io dico questo, le protezioni ci devono essere, certo che ci devono essere, se non le usi la colpa è tua. Sì, ma se c'è chi gliele fa rispettare queste regole qua, se c'è un responsabile, non lo fanno questo, capito? Perché se no li mettono multa, li mettono queste cose qua. Noi per dire, ne avevamo due di responsabili, ogni turno avevamo due responsabili, se vedevano qualcosa che non andava bene, prima te lo dicevano, poi andavano in ufficio, lo dicevano al principale, ti facevano mandare la lettera a casa, tutte queste belle cose. E a voglia che li hanno ricevuto i colleghi di lettere a casa, di espulsione, di questo, dell'altro, eccetera, eccetera, di avviso. Molte volte, una volta l'avevano mandato anche a me perché avevano detto che io non obbedivo agli ordini di quei cascettoni. Io ho capito, essendoci lì 38 anni, il mio lavoro lo conoscevo, è inutile che tu vieni da due giorni solo perché sei responsabile, mi dici no, il carrello me lo devi avvicinare quando sai che io devo essere operato alla gamba e non posso manco camminare, stavo lavorando con la gamba zuppicando a dolori da non poterne più e non mi facevano avvicinare il carrello agli scaffali, capito? Lo dovevo lasciare fuori, prendere la roba e portarla a mano. Sì, certo, è responsabile, magari se lo impediva ed era giusto così, ed era un responsabile che sapeva fare il proprio lavoro, ma tantissime volte il responsabile può anche avvisare, avvertire chi lavora, e quel lavoratore magari è imprudente e fa di testa sua, perché già lo sappiamo che la gente è così, non sempre si dà ascolto a quello che gli si dice. Allora a questo punto, se si fa male, la colpa di chi è? Nonostante gli avvertimenti del responsabile, eccetera, della ditta o tua personale? Io dico che è tua personale, poi... Beh, quello sì, quello se uno non fa le cose che gli dicono, però tante volte anche i responsabili già sbagliano, fregatene, che si credono di essere chissà che cosa, per ogni cosa da noi, spacciavi una cosa, ti facevano una fotografia, la portavano in ufficio e ti facevano richiamare. Beh, certo, infatti il compito del responsabile è quello, se vede che un operaio non obbedisce agli ordini che gli sono stati dati a usare tutte le protezioni, il compito del responsabile è quello di andare in ufficio da padrone e dire guarda che il tizio così e così, nonostante gli avvertimenti non usa le protezioni, allora sarà la ditta che prenderà provvedimenti. Però se a questo punto il fatto che lui abbia tutte le protezioni e che tu poi non lo rispetti, la colpa è sempre del laboratorio, anche perché hai tu, la prima persona interessata, la massima interessata per non succedere di questo sei tu, lavoratore, che sei lì a rischio e pericolo in qualsiasi momento. Perciò prima di fare un lavoro accertatene. Se la ditta, se capita una ditta non ti dà le protezioni, devi essere tu stesso a dire alla ditta, lì ascolta, per fare questo lavoro ci vogliono le protezioni, mio. Cerchiamo di svegliarci, perché se no io questo lavoro non lo faccio. E se non lo fai ti mando via. E adesso quando è l'ispettorato del lavoro. Perché è così che funzionavo Gianni. Vabbè, sì, in gran parte è così, però la ditta ti deve mettere in condizioni di poter lavorare, quello sì, ti deve mettere in condizioni, darsi tutta la roba che ti occorre e tu devi eseguire gli ordini che ti dà, in base sempre alle leggi che ci sono e per la protezione dagli incidenti sul lavoro. Appunto, è chi lavora che è il primo che deve essere prudente, secondo me, perché è lui che avrebbe il danno se dovesse succedere qualcosa. Io mi ricordo quando lavoravo una volta, me ne viene questo, era l'ispettorato del lavoro, siamo venuti a controllare gli interruttori, il macchinario, eccetera, vabbè, controllate, ho guardato, quando mi hanno detto, ma lei lavora da solo, proprio in quel periodo io, la mia fortuna è stata che avevo due ragazzi, li avevo mandati via qualche giorno prima, dai, sì, sono, io lavoro da solo. Ah, vabbè, non fa niente, allora arrivederci, se ne sono andati. Cioè, se no mi controllavano, magari mi potevano fare anche la contravvenzione, perché essendoci dipendenti tu devi avere tutte le regole. E cosa volevano dire loro? Che l'interruttore della macchina doveva essere sostituito, perché quello originale che aveva messo chi ha costruito la macchina non andava più bene. Per dire, oh Gianni, ci sono queste regole che cambiano anche da un giorno all'altro e devi essere sempre aggiornato. E ti mettono in condizione di chiudere, di non lavorare, perché certe volte sono anche esagerati, questo non va bene, l'altro non va bene, questo devi sistemarlo, eccetera. Sono sempre soldi che ti escono, e se sono piccole ditte, alla fine preferiscono chiudere che farsi fare tutte queste cose. Vabbè, è sempre un discorso molto lungo da fare. Adesso stanno uscendo delle leggi che sono proprio, guarda, si è sempre lavorato in una certa maniera, adesso vengono e si dicono che non va bene quello, che non va bene l'altro, ti fanno cambiare i interruttori, ti fanno castrellare tutto, ti fanno, guarda, è un casino. Sì, oggi ci sono tante regole che cambiano da un giorno all'altro, così, senza nemmeno che uno lo sappia, magari non si è aggiornato, arrivano quelli, ti controllano e ti fanno la bella multa. Lo so, purtroppo è così. Però io ho fatto sempre dall'idea, prima di mettere un passo guardo dove metto il piede, Gianni, dico, intendo per dire, prima di mettere le mani su una macchina o di prendere un attrezzo in mano o di spostare qualcosa, guardo quello che devo fare. Poi naturalmente, se in quel momento sono stato distratto, mi è successo un incidente, a cui per la mia, perché io non sono stato attento, perché non si deve mai distrarre, perché nel mondo del lavoro gli incidenti sono alla portata di qualsiasi momento, senza nemmeno aspettarlo, anzi non te lo aspetti mai, e ti succede, perché succede. Purtroppo bisogna essere prudenti, noi che abbiamo lavorato e che lavoriamo, e chi lavora soprattutto deve essere prudente. Io, guarda, un collega che, allora, il principale ha detto che non voleva vedere né bracciali, né anelli, né lavoro, eccetera, eccetera, specialmente il magazzino. Questo collega aveva sempre la fede, trova su Guglio Vado e non me ne devo togliere la fede, ma stiamo scherzando. Beh, non sai cosa gli è successo, arrampicandosi sull'impalcatura è scivolato, gli si è attaccata la fede alla scaffalatura, gli si è incastrata e gli ha tolto la pelle da tutto il dito. Quello è successo una volta alla strada Legname, è successo, c'era il camion del legname che avevano appena finito di scaricare, è salito sul camion, quando ha saltato ha messo la mano sulla sponda, gli si è agganciata la pelle e le ha troncato il dito, Gianni. La colpa di chi è in quel momento? Del principale, del camionista o la sua personale che aveva la fede che non poteva avere nel momento che lavori? E insomma, ci sono tanti particolari, però la colpa la danno sempre alla ditta, all'azienda sempre, non capisco perché. Questo mio collega non voleva visto, gli ha spellato tutto il dito, gli si arriva, ha letto lui, che cazzo è successo? Subito sono salito, ho preso il muletto, l'ho alzato in alto, di modo che lui mettesse il piede per tutte le cose, tutto il sangue che gli scendeva, un casino, l'ha dovuto portare all'ospedale, eccetera, però intanto, vedi, avvisato era che non poteva tenere la linea e cose, io me lo toglievo, anche se mia moglie mi diceva, non te lo devi togliere, la fede non si toglie, e io, vabbè, non si toglie, ma per il lavoro me la metto in tasca e se poi la perdi, non la perdo. Mi diceva cosa, perché non voleva che me la togliessi, capito? Non sa che poi potessi fare il galletto. Succede, io mi ricordo un'altra volta lì a Libriarsi, alla strada degli Gnani, c'era un motocarrista, non era proprio un motocarrista, era un camioncino, tipo che so io, un camioncino leggero, non era molto grande. E ha incominciato a caricare e si è messo a legare, tira questi funi. A un certo momento si spezza la fune, una caduta per terra, l'hanno dovuto portare all'ospedale perché il colpo che ha preso alle spalle, Gianni, quest'uomo era svenuto praticamente, non riveniva. Per dire, no, la colpa di chi era in quel caso lì, Gianni? Del principale o sua personale? Che ha usato una fune, magari idonea, o perlomeno ha fatto qualcosa che non doveva fare. Io parto sempre dall'idea che chi lavora deve essere lui il primo prudente. Vabbè, diciamo che è stata una cosa che non ti aspettavi, magari la fune non era che buona, magari ha tirato troppo e si è spaccata per quello, ma sono cose che quelli non puoi prevedere. Purtroppo sono incidici, sono dietro l'angolo, come hai detto tu, quando stai lavorando gli incidici sono dietro l'angolo. Appunto, aveva uno di quegli affari, sai, quella specie di cinghie che si mettono, che poi c'è una specie di maniglia che quando è già stretta e si continua a tirare, questo è caduto ed è stato fortunato perché a 10 centimetri da dove è caduto lui c'era un gradino, per fortuna non è battuto la testa sul gradino, ha battuto fortemente le spalle per terra. Se tu immagini, se fosse stato 10 centimetri più indietro da dove si trovava, sbatteva la testa al gradino, magari sarebbe anche ammazzato, per dire, no. Insomma, il discorso è sempre quello. Cosa dovevo fare il principale? Di mandare il camionista e un sorvegliante per controllare quello come stava legando? Oh, dai, già, aiuto. E quello è stato un caso, dai, che si sia rotta. Ma è successo anche a me di cadere con le spalle intere e di svenire nella vasca da bagno, ne ha spatto due o tre volte, infatti non mi siedo più nella vasca da bagno, mi faccio la doccia. Ho naspato due o tre volte, prima ho sbattuto la schiena sul bordo della vasca, poi sono caduto con la testa in terra, sono svenuto ed ero solo, capito? Per fortuna poi mi sono ripreso da solo e sono riuscito tutto a dolori a rialzarmi, ma intanto, e c'era il tappetino, oggi non è a dire che non avessi preso le precauzioni, il tappetino c'era, sono scivolato io, il tappetino quanto c'era. Ma voglio, ti saluto adesso che sto andando, dai, a portare il cane, mi sta avvisando che vuole scendere, dai. Ci sentiamo, grazie per il QSO, saluto tutti cordialmente, anche gli ascoltoni, ciao Marco, ciao Natalino se ci siete, e ciao a tutti gli altri che ascoltano, dai. Sì, riprendo io, dai. Ciao Gianni, grazie per il QSO, io non ascolto perché stavo cenando, dai, e vi stavo ascoltando. Ciao Giulio, e ciao anche a Marcolino se c'è. Io me ne faccio un po' di tia adesso, ci sentiamo alle prossime. Alle prossime, dai, facciamoci sentire, cerchiamo di tenerla viva questa frequenza, così almeno facciamo quattro chiacchiere di tanto in tanto, almeno non dico tutti i giorni, ma se non altro durante la settimana, almeno due o tre volte sarebbe bello. Ciao a tutti, chiudo anch'io, buona serata a tutti, grazie. Ciao Giulio, ciao, grazie per il questo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Marco, ciao.